Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi diciamo ciao ciao con la manina a quelli che volevano il ritorno della Prima Repubblica. Questo ha detto con la sua solita verba oggi il segretario del PD Matteo Renzi, spiegando, illustrando la sua proposta per la riforma della legge elettorale nella direzione del PD. Insomma, un giorno di fibrillazione, ci eravamo lasciati abbastanza sul suspense venerdì con questo incontro che ci doveva essere tra Renzi e Berlusconi. C'è stato, oggi c'è stata la proposta appunto al suo partito, al Partito Democratico. Non è andata giù comunque a moltissimi questo rendezvous tra loro. Intanto Cooper lo ha già detto, il presidente, mica uno qualsiasi del Partito Democratico, che questa proposta non lo convince, anche se poi in serata la direzione del PD ha votato a maggioranza il via libera a questa proposta di legge. E, fra l'altro, ci sono Le Monde, quotidiano francese, New York Times, che hanno due posizioni molto diverse su questo incontro. Le Monde dice, parla di un patto con il diavolo, cioè di Renzi con Berlusconi, un patto con il diavolo. Il New York Times invece di una speranza per gli italiani. Voi come la pensate? Questa può essere una domanda alla quale rispondere questa sera attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Un patto col diavolo, come dice Le Monde, oppure una speranza per gli italiani? O anche semplicemente dire la vostra su questa ipotesi di riforma elettorale che si chiama Italicum. Poi, se oggi vi sentite un po', come possiamo dire, di cattivo umore, non vi preoccupate, perché è semplicemente oggi il Blue Monday, cioè il lunedì un po' così malinconico, è il giorno più triste dell'anno, pensate, proprio oggi, il giorno più triste dell'anno, che cade proprio nel terzo lunedì di gennaio. E a calcolare questa data con esattezza nei primi anni 2000 è stato Cliff Arnall, che è uno psicologo dell'Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione che prende in considerazione alcune variabili come il meteo, i debiti accumulati per i regali di Natale, il calo di motivazione dopo le feste e la crescente necessità di darsi da fare, è riuscito a stabilire che questo è proprio il giorno più nero dell'anno, quello in cui ci sentiamo più tristi. Tra l'altro, il fatto che sia lunedì certamente non aiuta, il primo giorno della settimana, e in Gran Bretagna lo prendono così seriamente, pensate, questo giorno, che è stato calcolato che proprio in questa giornata aumenta il numero di assenze dal lavoro. Ma io sono qui e quindi procediamo. Naturalmente dalla legge elettorale, Matteo Renzi alla segreteria del PD dice: ecco la mia riforma, il presidente Cooper lo commenta, la proposta non mi convince, ma la direzione del PD la vota. Mal tempo, un morto e un disperso, allagamenti e centinaia di sfollati. Mafia Totorina intercettato, ride sugli attentati e sul magistrato Di Matteo dice per lui la fine del tonno. Addio al maestro Claudio Abbado, una vita per la musica, la Camera Ardente sarà allestita da domani in Santo Stefano a Bologna. E poi calciomercato, il popolo nero-azzurro in rivolta, frena via web lo scambio Guarin-Vucinic. Iniziamo quindi inevitabilmente dalla politica, con Matteo Renzi, abbiamo detto, ha presentato alla direzione del PD la sua proposta di legge elettorale rettificata con il doppio turno anti-larghe intese, però con quali risultati all'interno soprattutto del suo partito, Vincenzo Miglietta? Ciao Vincenzo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Diciamo subito che lo scontro all'interno del PD, almeno a parole, almeno con i grandi nomi tipo Cooper, di cui parlavi poc'anzi, Roberta, è uno scontro reale ed esistente, che però non si ritrova poi alla conta finale della direzione. Infatti vi sono stati 111 voti a favore, 34 astensioni e nessun voto contrario al cosiddetto Italicum, per cui, ecco, almeno nei voti Renzi ha fatto man bassa della ultramaggioranza della direzione del PD. Ma c'è un passaggio chiaro, che il sistema elettorale che noi abbiamo visto offerto alla nostra attenzione è un sistema elettorale, qualcuno ha detto che è lo spagnolo, poi quando si sono viste le anticipazioni no, è il tedesco, l'ibericum, il tedescum, chiamatelo Italicum senza alcun problema, potete chiamarlo come vi pare. Ritengo che la proposta di nuova legge elettorale avanzata oggi, per una serie di ragioni, non risulti ancora convincente. Io la considero una soluzione non convincente perché non garantisce allo stato delle cose né una rappresentanza adeguata, né il diritto dei cittadini a scegliere il proprio ente, né una ragionevole governabilità. E sono aspetti tutt'altro ovviamente che secondari o marginali. Quindi abbiamo sentito Vincenzo Miglietta, il segretario del PD e il presidente del PD, su posizioni contrapposte, no? Su questa ipotesi. Assolutamente. Ecco, le critiche maggiori che arrivano dalla minoranza del PD, ma poi allargando il discorso anche dai cosiddetti piccoli partiti che al momento fanno parte del governo Letta, è proprio la presenza di queste famose liste bloccate, delle micro liste per ogni provincia, 5-6 nomi, comunque sempre decisi dalle segreterie dei partiti, senza possibilità poi di esprimere una propria preferenza. Ecco, su questo punto qui evidentemente Renzi si gioca molto e si giocherà soprattutto nel passaggio parlamentare che vi sarà a partire dal 27 gennaio prossimo. È questo un punto che stasera Alfano è tornato del nuovo centrodestra a dire: senza preferenze non si va avanti. Anche Scelta Civica punta il dito sulle preferenze e anche sulla soglia del premio di maggioranza dato alla coalizione vincente, mentre invece Renzi, ricordiamo, anche oggi ha incassato il pieno appoggio di Silvio Berlusconi e tante invece le critiche dalla Lega, dalla Sinistra Ecologia e Libertà, Roberta, e per finire anche tante critiche da parte di Grillo, sì, che continua a dire questa è una legge fatta tra l'altro da un pregiudicato. Infatti l'ha chiamata pregiudicatellum l'ha chiamata, per dire, per far fuori noi del Movimento 5 Stelle e invece resuscitare Berlusconi. Insomma, molto movimento, bisogna dire. Vedremo nei prossimi giorni che direzione prenderà questo percorso così travagliato. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie, ciao, buonasera. Vincenzo. Adesso parliamo di altro tipo di turbolenze gravi del maltempo, perché è emergenza nel Modenese con un disperso e diverse centinaia di sfollati a causa dell'esondazione del fiume Secchia, per la quale la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Nella provincia di Modena sono arrivati anche 50 militari dell'esercito a fornire supporto ai cittadini al lavoro, dalla notte scorsa anche molti volontari dell'ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Allora sentiamo qual è la situazione del Modenese dal presidente dell'associazione Fabrizio Pregliasco. Più di 550 persone accolte e assistite nei centri di accoglienza e evacuazione addirittura di frazioni nei comuni di Bastiglia, Bonporto, Albareto e nella zona di Modena e nella frazione di San Pietro in Elda. E in più hanno dovuto evacuare addirittura la casa di riposo Sant'Anna. A Mirandola, già colpita, i volontari hanno allestito nella notte scorsa un centro di accoglienza per circa 170 persone nel palazzetto dello sport, per gli sfollati dei paesi di Solara e Bastiglia. Ovviamente, come sempre, bisogna soprattutto attivare la resilienza, noi diciamo, delle comunità, cioè la capacità di reazione a fronte dell'emergenza, al di là del primo impatto che ovviamente ci coglie preparati. E sempre a causa del maltempo c'è stato un morto e anche un disperso in Francia, in Costa Azzurra, dove sono 150 gli sfollati, migliaia le case senza elettricità. Intanto il maltempo si sposta al sud e per le prossime ore la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo con particolare criticità per Basilicata e Calabria. Lasciamo il maltempo e passiamo invece al caso dei due Marò, una vicenda che si complica ulteriormente, almeno a sentire la stampa indiana. Torna lo spettro della pena di morte per i due Marò. Ad agitarlo ancora una volta è la stampa indiana, secondo la quale il Ministero dell'Interno avrebbe autorizzato l'applicazione della legge antipirateria, il cosiddetto SUAT, che prevede appunto fino alla pena capitale. Una linea dura dunque si prospetterebbe per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina responsabili dell'omicidio di due pescatori indiani nel 2012. Ma questo appunto secondo la stampa indiana, mentre la Corte Suprema ha riaggiornato l'udienza al 3 febbraio, in quell'occasione dovrebbe finalmente dare una risposta sul capo di imputazione nei confronti di due Marò, una risposta che, dice il ministro degli esteri Bonino, l'Italia aspetta da due anni. Indubbiamente, se a due anni dal fatti avvenuti non si è neanche in grado di stabilire un capo d'accusa, è evidente che questa è una violazione di qualunque idea di giustizia, insomma, adeguata. Intanto il caso arriva a Bruxelles, il ministro degli esteri Bonino lo ha illustrato oggi ai 28 colleghi europei, e se l'India sceglierà la linea dura, e cioè l'applicazione della pena capitale, ci saranno contromosse anche a livello europeo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di mafia, perché sono state depositate agli atti del processo sulla trattativa Stato-mafia le conversazioni tra il boss Totorina e il capo mafia della Sacra Corona Unita, Alberto Lorusso, intercettato dalla DIA il 16 novembre durante l'ora d'aria nel carcere milanese di Opera. Rina parla di progetti di attentati contro i magistrati palermitani, coinvolgendo gli uomini delle scorte, vittime vittime, che a volte chiama paparelle e a volte anatroccoli. Rina inoltre minaccia il PM di Palermo Nino Di Matteo, dice: ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono, dice allo Russo, questo pubblico ministero di questo processo che mi sta facendo, aggiunge, uscire pazzo. Ora, l'imprenditrice Angela Armellini è stata denunciata per evasione fiscale. Avrebbe nascosto all'erario 2,1 miliardi di euro. Risulta proprietaria di 1.243 immobili, compresi tre alberghi, soprattutto a Roma. Una città nella città a tutti gli effetti, ma invisibile ai controlli del fisco. Tant'è che la Guardia di Finanza l'ha denunciata per associazione a delinquere finalizzata all'evasione per oltre 2 miliardi di euro. La protagonista è Angela Armellini, figlia del noto costruttore romano Renato Armellini, rapito dall''Ndrangheta. Insieme alla donna sono state denunciate altre 11 persone, tra cui consulenti e manager. All'imprenditrice viene contestata la mancata dichiarazione di disponibilità estera in Lussemburgo, Principato di Monaco e Svizzera. In 10 anni il valore non dichiarato degli immobili ha raggiunto i 2 miliardi e 100 milioni di euro. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono anche notizie di spionaggio, diciamo così. Una microspia artigianale è stata trovata nella sala riunioni della Regione Lazio in uso al presidente Nicola Zingaretti. L'apparecchio per intercettazioni ambientali è stato trovato durante una bonifica e Zingaretti ha sporto denuncia ai carabinieri, indaga la Procura di Roma. Ed è il caso di parlare dei segnali positivi che arrivano dall'industria italiana. Finalmente, per la prima volta, cambia la tendenza. La notizia non è tanto nei numeri, che pure rendono concreto il buono dei dati. La notizia è dentro i numeri. A novembre gli ordinativi dell'industria hanno registrato un aumento del 2,3% su ottobre e del 3% su base annua, grazie al mercato interno. Di solito, o almeno così siamo stati abituati fin qui, succede che il mercato interno langue mentre tengono gli ordini dall'estero. Il penultimo mese dell'anno ha fotografato un capovolgimento. Mercato nazionale più 4,1%, mercato estero meno 0,4%. Stesso discorso vale per la crescita annua, con un più 5,5% a livello nazionale contro lo 0,5 in meno degli ordini dall'estero. Dunque non può essere un caso, il paese sta ripartendo. Inversione anche per il fatturato, che a novembre segna un rialzo dello 0,4% rispetto all'anno precedente, grazie in questo caso ancora una volta alla spinta dei mercati esteri. È il primo aumento annuo dopo 22 cali consecutivi. Su ottobre, però, l'aumento dello 0,9% registra la ripresa sia per il giro d'affari ottenuto sul mercato interno, sia per quello estero. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Non andrà in carcere Adam Cabobolo, ricordate, il ghanese che l'11 maggio scorso a Milano uccise tre passanti per strada a colpi di piccone. Il suo stato di salute mentale, infatti, è incompatibile con la reclusione. Questo l'ha stabilito una perizia medico-legale disposta dal Tribunale del Riesame di Milano, che aveva accolto il ricorso dei difensori di Cabobolo. L'uomo quindi dovrà essere trasferito dal carcere di San Vittore, dove si trova, in un ospedale psichiatrico giudiziario. Il maestro Claudio Abbado, scomparso questa mattina a 81 anni, la camera ardente del maestro sarà a Bologna, nella Basilica di Santo Stefano, dalle 14 di domani alle 24 di mercoledì. A Bologna il maestro decise di stabilirsi proprio nel 2004, dopo aver fondato l'orchestra Mozart con Carlo Maria Baldini. E comunque più tardi torniamo a parlarne per farne un ritratto. Per chiudere invece il calcio, con i tifosi dell'Inter in rivolta, perché una trattativa si complica: il passaggio di uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter a un'altra società italiana è la goccia che fa traboccare il vaso. Questo lo scrive la Curva Nord sullo scambio Vucinic-Guarin, che ha provocato l'ira dei tifosi nerazzurri, reazione che potrebbe spingere addirittura l'Inter a far marcia indietro sull'operazione con la Juve. Insomma, ci sono trattative difficili, quasi come in politica, anche nel calcio. Poi torneremo invece sulla politica. Adesso ci prendiamo una sosta per aggiornare chi viaggia e poi potete continuare con le vostre opinioni, che già vedo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, la riconoscete, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Che ne pensate di questa ipotesi di riforma elettorale presentata da Renzi, questo Italicum? E poi vi dicevo Le Monde di questo accordo tra Renzi e Berlusconi, ha parlato di un accordo con il diavolo, di un patto col diavolo, mentre il New York Times parla di una speranza per gli italiani. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e quindi prima di passare all'argomento del giorno e poi agli altri ospiti su altri temi, vi ricordo, se aveste acceso la radio proprio in questo momento, ma voi ricordatevi puntualmente di accendere alle 21, quali sono stati i fatti principali della giornata. Naturalmente la legge elettorale con Renzi che vara l'Italicum con premio e ballottaggio di coalizione, lo ha presentato oggi la direzione, che approva dopo uno scontro con la minoranza Cuperlo, che ha detto: questa legge non mi convince. Maltempo, un morto e un disperso, allagamenti e centinaia di sfollati. Mafia Totorina è stato intercettato, ride sugli attentati sul magistrato Di Matteo, dice per lui la fine del tonno. Addio al maestro Claudio Abbado, una vita per la musica. La Camera Ardente sarà allestita da domani a Bologna, nella chiesa di Santo Stefano. Per il calciomercato, il popolo nerazzurro in rivolta e contesta via web questo scambio tra Guarin e Vucinic. E non so se Stefano Folli vuole dire la sua sullo scambio Guarin-Vucinic, non credo che ti interessi. Stefano, magari mi sbaglio. Vucinic sono due grandi campioni, per la verità. Quindi poi Vucinic ha giocato nella Roma, è stato un grande attaccante, e anche Guarin lo è. Non lo so, però non saprei dire quale, se sia equo questo scambio oggi. Stefano è eclettico, è proprio aperto su tutto, ma è soprattutto editorialista del Sole 24 Ore e si occupa principalmente di politica, però ogni tanto alleggeriamo un po'. Stefano, certo. Prima di tutto, prima di passare alla disanima di questa proposta di riforma elettorale, a te che effetto ha fatto l'incontro Renzi-Berlusconi? Onestamente non mi ha fatto un grande effetto, perché è evidente che se tu vuoi darti l'ambizione di cambiare la Costituzione e questa famosa legge elettorale che sono anni che è bloccata, devi parlare con chi rappresenta l'opposizione. Grillo si chiama fuori e quindi si parla con Berlusconi. Naturalmente la cosa non è esente da rischi, non è esente da possibili passi falsi, però oggi Berlusconi è molto più debole di 10 anni fa o anche 7-8 anni fa, quando diciamo riusciva a prevalere nell'incontro con Veltroni o con D'Alema, e adesso Renzi ha delle qualità e anche delle circostanze che lo possono favorire per portare a casa un risultato, anche incontrando il diavolo. Come diceva Le Monde, e lui dice del resto bisogna riconoscerlo, una cosa che è nei fatti, cioè Berlusconi è il leader del centrodestra, e dice siamo per fare un accordo oggi sulle regole con Berlusconi per evitare poi di farci un governo domani. Ti convince questa frase, questo concetto? Mi convince fino a un certo punto, però è ben detta, perché Renzi è molto abile nel dire queste frasi che colpiscono la fantasia, è un comunicatore. Mi convince fino a un certo punto, perché noi non siamo un sistema bipolare ed è anche un po' pericoloso volerlo trasformare a tutti i costi in bipolare attraverso la legge elettorale. Noi siamo un sistema che oggi come oggi è tripolare, nel senso che c'è Grillo che rappresenta un blocco paragonabile in termini di voti agli altri due, centrosinistra e centrodestra. Quindi essendo tripolare è possibile anche che la legge elettorale non riesca a trasformarlo e a garantire quella governabilità che Renzi punta ad avere e che sarebbe la garanzia contro le larghe intese, poi di questo si tratta. Però indubbiamente questa di oggi è una giornata in cui Renzi ha fatto dei passi avanti e ha ottenuto un successo politico indubitabile. Saluto intanto, poi ti chiedo Stefano Folli che ne pensi appunto della proposta di legge, ma saluto Francesco Paolo Sisto, onorevole buonasera. Buonasera a tutti. Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia. Senta, prima di qualsiasi altra cosa, di chiederle che ne pensa appunto di questo incontro che c'è stato, di questo accordo trovato tra Renzi e Berlusconi, di cui immagino sarà contento. Renzi oggi ha detto: sono grato al Cavaliere perché è venuto nella sede del PD, e del resto con chi dovevo parlare? Con Dudu. Questo mi fa pensare che secondo Renzi, lei mi corregga naturalmente, che secondo Renzi l'unico valido rappresentante del centrodestra di Forza Italia è Berlusconi, dice tutti gli altri, insomma, dice se no a chi devo passare direttamente al barboncino, che forse nessuno è adeguato, diciamo, a un ruolo, non dico di leadership, ma insomma come possibile interlocutore dentro Forza Italia che non sia Berlusconi, altrimenti si scende direttamente al barboncino che non è neanche famoso di per sé stesso, ma perché anche lui è appartenente a Silvio Berlusconi. Non è un po' offensivo, Sisto? Io penso che Renzi abbia questa dote di comunicatore e quindi qualsiasi effetto speciale per lui va bene, pur di dire ai suoi compagni di partito. A me sembra un po' il contrario, cioè che avere scelto Forza Italia come interlocutore sia stato, come posso dire, una stamatriciana un po' indigesta per tanti all'interno del Partito Democratico, per i vetero comunisti, per usare un'espressione diciamo di cui qualche volta si abusa. Io ritengo che questo sia stato, cioè il paradosso è stato utilizzato per dire io dovevo per forza dialogare con Silvio Berlusconi, perché sostanzialmente si è rivelato anche l'interlocutore più affidabile, questa è la verità, perché l'accordo che è stato stilato, vedremo adesso i dettagli, perché indubbiamente io che sono anche relatore della legge elettorale ho la necessità di conoscere nel particolare quello che è il sistema che viene proposto, perché come lei sa il progetto di massima è una cosa, il progetto esecutivo è un altro, bisogna necessariamente che questa idea di fondo poi trovi applicazione per tutte le possibili variabili, per smussare tutti gli spigoli, perché possa calare sulla realtà elettorale di questo paese in modo diciamo corretto e quindi in linea con quelli che sono i principi che la Corte Costituzionale ha disegnato. Quindi direi che il paradosso di Renzi noi certamente diciamo non abbaiamo, quindi voglio dire questo è sicuro, però è un modo molto efficace più per dire ai suoi dovevo dialogare con Berlusconi, ma certamente non per sminuire il grande lavoro che tutti noi abbiamo fatto su questo progetto. Ma perché lui è vero leader, insomma, è ma diciamo che ecco, se potessi dire l'incontro è stato un capolavoro da un punto di vista di metodo. Berlusconi che va nella sede del PD sotto il quadro di Che Guevara per trovare un accordo diciamo con un altro showman della politica come Renzi, non certamente come Grillo, ma io credo che sia stato ecco, molto simile nel picco un bonsai dell'incontro di Teano, se volessimo usare un'espressione diciamo così un po' storica, un grande incontro, un grande momento in cui la maturità di due, uno più giovane, uno meno giovane, ma giovane dentro leader, ha fatto sì che il paese potesse superare un impasse che a me sembrava di difficile superamento. Leggo alcuni messaggi intanto tra tantissimi che stanno arrivando. Renato dice: Renzi ha stipulato un patto con il diavolo, Alfano muore dalla voglia di riabbracciare Berlusconi con le conseguenze facilmente immaginabili. Poi un altro ascoltatore che non si firma dice: un condannato appurato e uno in primo grado, scusate il freddo, si incontrano e vogliono cambiare la legge elettorale, la Costituzione, ma stiamo scherzando. Comunque Stefano Folli dice, un altro ascoltatore, che faremo un certo servizio se spiegassimo i pro e i contro delle liste bloccate. Poi ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni man mano che arrivano i dettagli, però fra gli elementi di questa proposta di legge elettorale Renzi ha detto ci sarà il premio di maggioranza per chi prende almeno il 35% e questo premio di maggioranza dovrebbe farlo arrivare almeno al 53-55%, quindi ci sarà un premio del 18% più o meno, no? E poi c'è questa cosa delle liste bloccate che vedo gli ascoltatori li convincono poco, ce ne sono tanti messaggi. Guarda, su questo i dettagli tecnici sono ancora tutti da studiare, come diceva adesso il Presidente Sisto, però la questione di fondo è questa: c'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale di recente proprio sulla questione delle liste bloccate, sulla questione di un premio di maggioranza esorbitante. È evidente che sono aspetti su cui il Parlamento dovrà riflettere molto, perché c'è il rischio che si possa fare quello che i critici dicono già un nuovo Porcellum, cioè una nuova legge che presenta alcuni degli stessi difetti della precedente, quella che è stata annullata dalla Corte Costituzionale. Quindi questo è un punto molto delicato, è inutile entrare nei dettagli, però non c'è dubbio che sia la questione del premio di maggioranza sia la questione delle liste bloccate andranno a studiare molto bene in Parlamento, altrimenti si va incontro a dei rischi molto, molto forti. Io personalmente penso che si debba restituire con grande coraggio e grande franchezza il massimo della trasparenza al rapporto fra elettore ed eletto, cosa che da quello che si sa questa legge non offre, proprio perché presenta delle liste che non sono quelle del Porcellum, sono più brevi, sono più corte, però sono pur sempre liste bloccate, tant'è vero che Renzi intelligentemente. A proposito delle primarie. A proposito delle primarie per la scelta dei candidati del PD. Sarebbe meglio, questo gli è stato fatto notare dall'opposizione interna, che allora il PD facesse una battaglia per imporre le primarie come legge, cioè che riguardi tutto lo schieramento, l'insieme dello schieramento politico. Tutti gli ogni altri partito partiti. Dovrebbe fare le primarie proprio per ovviare al problema delle liste bloccate. Leggo Francesco Paolo Sisto, altri messaggi, così magari se ha voglia di rispondere. Li vedo tutti un po' diffidenti. Roberta che dice: sicuramente non garantisce il diritto dei cittadini a scegliere i propri rappresentanti, assomiglia tanto al tutto deve cambiare perché nulla cambi. Poi Mario scrive: Renzi non fa che confermare quello che prima era un sospetto ed ora una certezza. I partiti non vogliono le preferenze perché vogliono essere i padroni delle liste. Gianfranco: il maggioritario puro è la democrazia. Tullio dice: ma come si fa a credere ancora che questo potere lasci davvero ai cittadini la possibilità di decidere e scegliere? Anche le primarie dei PD sono un gioco truccato. Renzi dice era programmato già per diventare segretario. Massimo scrive: ha ragione Cuperlo, le preferenze sono un cardine della democrazia. Per Lorenzo un mini porcellum, che geni, che fantasia. E Floriano dice: Cuperlo è il passato, poi ha perso, se ne deve andare, se ne faccia una ragione. Quindi qui un'opinione diversa. Andrea, sì. Prego, finisca. No, ma sono tantissimi, leggo solo quello di Andrea. Democrazia rischia di diventare una parola priva di significato. Sono tutti un po' arrabbiati su questa storia delle preferenze. Ma guardi, io penso che ci voglia anche un po' di informazione. Certo. Comprendo che l'antipolitica qualche volta colpisce anche coloro che magari vogliono fare politica sul serio e sono in perfetta buona fede. La Corte Costituzionale nella sua motivazione ha espressamente chiarito che le liste piccole in piccoli collegi sono perfettamente costituzionali e che rispondono quindi al principio di riconoscibilità da parte dell'elettore del soggetto da eleggere. Questo è il principio, questo accordo, questa proposta è in linea con quello che la Corte Costituzionale con la sentenza 1 del 2014 ha detto, quindi nessuno credo si fa. Ecco, può essere una scelta politica, ma non certamente una scelta di carattere costituzionale. Io poi, pur avendo una squadra di appartenenza, quando faccio l'arbitro devo cercare di essere imparziale, quindi da questo punto di vista prendo atto che la scelta è ricaduta su un sistema che espressamente la Corte ha dichiarato in linea con i principi della Costituzione. Aggiungo che tra l'altro nelle audizioni che abbiamo fatto in Commissione, che sono terminate venerdì, oggi abbiamo iniziato la discussione generale che procede domani mattina dalle 9 alle 12, mi auguro mercoledì di poter presentare un testo base, nelle audizioni i nostri esperti hanno bacchettato profondamente le preferenze pure, ritenendole non solo foriere di rapporti con pacchetti di voti, criminalità, come l'antimafia ha detto più volte, ma c'è stata la professoressa Nicotra che ha segnalato come le campagne di preferenza costano, quindi creerebbero uno squilibrio fra i candidati che hanno la capacità economica di pagarsi la campagna elettorale. Io posso dirle che per esempio in Puglia una campagna elettorale per il Consiglio regionale non costa meno di 700-800 mila euro, almeno questi sono i dati che si apprendono, quindi voglio dire, creerebbe uno squilibrio fra coloro che hanno la capacità economica propria o indiretta di finanziarsi la campagna elettorale e coloro che invece non ce l'hanno, quindi diciamo che le perplessità sulle preferenze, che sono viste sempre come la massima espressione della scelta, però poi nel momento pratico i nostri esperti hanno segnalato, esperti bipartisan ovviamente, quando dico nostro dico della Commissione, soprattutto alcuni del PD con grande fermezza, che le preferenze sono foriere di problemi dal punto di vista della purezza delle strutture. Ma ci torneremo su questo argomento. Sisto, mi dica solo una cosa mentre siamo in conclusione quasi. Secondo lei quando si potrebbe arrivare al voto in aula e secondo lei ci sarà, come funziona? Ci sarà il voto segreto, non il voto segreto? Anche su questo c'erano polemiche. Io credo che si possa sintetizzare in questo modo. Noi abbiamo il 27 fissata l'aula, ma c'è stata la variabile non codificata dell'Assemblea Nazionale di SEL, che per venerdì, sabato e domenica non ci consente di lavorare, quindi è probabile che dal 27 si passi al 29. Comunque quello che posso dire è che entro il mese di gennaio certamente il provvedimento sarà in aula. Su questo credo di potermi ampiamente impegnare. Il voto segreto, come lei sa, è possibile che venga richiesto in aula da un certo numero di deputati ed è chiaro che il voto può riguardare tutte le votazioni, anche gli emendamenti. Quindi diciamo che mi sembra che però per come è andata oggi la segreteria di Renzi, con 111 voti a favore, credo 35 astenuti, Renzi ha detto questo non è una legge di parte del PD, ma è la legge per ridare dignità al Partito Democratico. Almeno dal Partito Democratico non ci dovrebbero essere sorprese. Se non ci sono sorprese dal Partito Democratico e da Forza Italia non ci sono sorprese, mi sembra che elementi per avere problemi almeno oggi sui numeri. Ce ne sono pochi. Essere, benissimo. Salvo, ripeto, salvo il maquillage che noi andremo a fare sulla legge elettorale, perché sia ben chiaro, la legge elettorale non si scrive nelle segreterie e nelle direzioni nazionali, si scrive in commissione e in Parlamento, cioè è ben chiaro che questo è un percorso che rimane intatto e se c'è da intervenire su qualche passaggio certamente lo si farà. Bene, vi seguiremo poi nei prossimi giorni. Stefano Folli, per chiudere, sei ottimista, Cuperlo non l'ha presa per niente bene, no? Comunque. Cuperlo? Non l'ha presa per niente bene, no, questa proposta, ha detto non è convincente, poi si è alzato, se n'è andato, insomma. Il dato è che Renzi è un personaggio che se ne infischia dell'unità del Partito Democratico, mi sembra, no? Quindi sì. Lui va avanti per la sua strada e si ritiene abbastanza forte da poter fare a meno di un'opposizione interna che peraltro è piuttosto debole, oggi ha dato una dimostrazione complessiva di debolezza anche negli argomenti, quindi da questo punto di vista la giornata di oggi non dico che sia storica, ma certamente segna un passaggio importante nella storia del centro-sinistra. Rischio scissione nel PD, per chiudere, Stefano? Ma adesso no, ma non mi stupirei se in futuro la coperta fosse troppo corta per tenere tutti. Tutto insieme. Grazie Stefano Folli, ciao, grazie onorevole Paolo Sisto, Francesco Paolo Sisto. Arrivederci. Buona continuazione e buon lavoro, soprattutto sulla legge elettorale. Adesso ci fermiamo, prendiamo una sosta noi dal lavoro, ma proprio pochi istanti a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, ripercorriamo un attimo i fatti principali della giornata, a partire dalla legge elettorale con Matteo Renzi che vara il cosiddetto Italicum, una sua proposta di legge di riforma della legge elettorale che presenta la segreteria del PD, che dice, ecco la mia riforma, ma il presidente Cuperlo commenta non mi convince, però la direzione approva dopo uno scontro appunto con la minoranza. Continua il maltempo, un morto, un disperso, allagamenti e centinaia di sfollati, adesso l'allerta in particolare è per il sud, per la Basilicata e per la Calabria. Mafia Totorina, intercettato lo scorso 16 novembre, ride sugli attentati e sul magistrato Di Matteo, dice per lui voglio fargli fare la fine del tonno. Addio al maestro Claudio Abbado, una vita per la musica, e la Camera Ardente ci sarà da domani, sarà allestita da domani in Santo Stefano a Bologna. Per il calciomercato i tifosi nero-azzurri in rivolta frenano via web lo scambio Guarin-Vucinic. E prima di parlare di Europa volevo leggere ancora brevemente qualcuno dei vostri messaggi. Leggo per esempio sempre sulla questione dell'accordo Renzi-Berlusconi e sul tipo di riforma elettorale, per quello che abbiamo potuto per il momento capire. I cittadini, dice Daniela, devono poter scegliere il loro candidato, è inutile fare le primarie come dice Renzi perché tanto poi i segretari li rimettono in lista. Dicevo, lo spazio dell'Europa come tutte le sere. Stasera parliamo del caso dei due Marò, dell'India, dall'India a Bruxelles l'Italia chiede aiuto all'Europa. La vicenda dei due Marò, Massimiliano Latorre, ormai la conoscete, Salvatore Girone, arriva sul tavolo dei 28 ministri degli esteri dell'Unione Europea riunitosi oggi a Bruxelles. Europa 24 notte. Verso le europee. Contraddizioni, omissioni, ritardi, promesse mancate, una vicenda complicata, quella dei due Marò, dove sullo sfondo viene continuamente agitato lo spettro della pena di morte. Anche oggi la stampa indiana torna a sostenere che per i due fucilieri, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, responsabili della morte di due pescatori indiani nel 2012, il Ministero dell'Interno avrebbe autorizzato l'uso della legge antipirateria che prevede fino alla pena capitale. Una vicenda che si trascina ormai da due anni e per la quale l'Italia ora chiede, anzi pretende, sostegno forte dall'Europa. Per questo oggi il ministro degli esteri Bonino ha chiesto ufficialmente solidarietà concreta ai colleghi europei, sottoponendo il caso al Consiglio degli Affari Esteri di Bruxelles. In realtà la diplomazia del vecchio continente si è già attivata sotto impulso dell'alto rappresentante per la politica estera Catherine Ashton, ma evidentemente non è abbastanza. L'Italia si aspetta che l'India abbia una percezione chiara che la lunghezza del meccanismo accusatorio e il rischio di pena di morte sono assolutamente inaccettabili. E per il vicepresidente della Commissione europea Tajani, l'Europa potrebbe anche interrompere le trattative per gli accordi di libero scambio o sospendere le facilitazioni tariffarie in atto. È chiaro che per l'Europa è inaccettabile l'applicazione della pena di morte. La pena di morte è contro i valori dell'Unione Europea, come è scritto chiaramente nel trattato, abbiamo ricevuto un premio Nobel per il nostro impegno per la pace, ivi compresa l'azione contro la condanna a morte, quindi una proposta di condanna a morte non potrebbe non provocare un'interruzione delle trattative sull'accordo di libero scambio che è in corso con l'India. Io credo che dovremmo anche chiedere poi una sospensione di facilitazioni tariffarie che oggi l'India ha con l'Unione Europea. Cioè, sui diritti umani non si tratta, sulla pena di morte non possiamo trattare. Io ho chiesto al Presidente Barroso un'azione forte, Barroso mi ha detto in maniera molto chiara che l'Europa è fortemente impegnata contro la pena di morte e farà di tutto perché si risolva positivamente il caso. Io sono moderatamente ottimista, sono convinto che alla fine prevarrà la posizione del Ministero degli Esteri, perché per noi la pena di morte è inaccettabile, è qualcosa sul quale non possiamo trattare. Insomma, se l'India scegliesse la linea dura, e cioè di applicare la legge antipirateria, contromosse a livello europeo non mancheranno. Tutte le opzioni sono sul tavolo, riferisce il ministro Bonino al termine del vertice di oggi, senza però specificare quali. Intanto gli occhi sono puntati sul 3 febbraio, quando ci sarà la prossima udienza della Corte Suprema. Solo in quell'occasione si capirà se quelle notizie di stampa hanno fondamento o no, sperando che non ci sia un ulteriore rinvio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Eccoci di nuovo per parlare adesso di un altro tema ancora. Vi ricordate nei giorni scorsi, se eravate all'ascolto come spero, abbiamo parlato del cargo danese e norvegese che porteranno via le armi chimiche dalla Siria secondo questo accordo internazionale, e prima di trasportarlo, di trasbordarlo, tutto questo carico di armi chimiche su una nave americana, passeranno dal porto di Gioia Tauro in Calabria, lì avverrà questo trasbordo, e a decidere, anzi ad annunciare la decisione sul porto di Gioia Tauro è stato nei giorni scorsi il ministro Lupi, ministro dei trasporti, che ha comunicato appunto il nome di questo porto italiano, considerato, dice, il più sicuro e più facile nella gestione in caso di proteste e manifestazioni. E oggi c'era stato giorni fa qui a Effetto Notte ospite il sindaco di Gioia Tauro Renato Bellofiore, che oggi poi si sarebbe incontrato, come aveva annunciato, con altri sindaci dell'area, della zona, per decidere un po' il da farsi, per capire come affrontare questa situazione, mentre domani il presidente del Consiglio Enrico Letta e il ministro dei trasporti Lupi incontreranno le autorità locali della Calabria. Ci sarà anche naturalmente Renato Bellofiore di nuovo qui, benvenuto, bentornato a Effetto Notte, sindaco. Buonasera a tutti, buonasera alla telecronista, buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, oggi quindi a che conclusione siete arrivati come sindaci della Piana di Gioia Tauro? Guardi, oggi c'è stata una ribellione totale, c'è stata una volontà veramente di popolo forte dire no a questo metodo usato dal governo nei confronti della Calabria, nei confronti della popolazione della Piana di Gioia Tauro. Vi erano 33 sindaci della Piana di Gioia Tauro, più gli altri sindaci della Ionica, più dell'area grecanica, tutti concordi nel ribadire un no per il metodo utilizzato nei confronti appunto della popolazione, sia per il sito che non è idoneo dal punto di vista strutturale, perché al di là del porto le ripercussioni, come si dicevano, si potrebbero tranquillamente espandere nelle popolazioni vicine. Si pensi soltanto che da dove dovrebbero avvenire questo trasbordo, c'è una scuola elementare a meno di 500 metri. Quindi c'è una situazione abbastanza calda, dovuta purtroppo alla gestione non corretta di questa situazione, di questa operazione. Però il governo rassicura, no? Continua a dire che non ci sono rischi, che Gioia Tauro è il porto sicuro. Tra l'altro oggi una dichiarazione del ministro Lupi, che le giro, è questa: dice, sono un po' stupito della reazione delle autorità locali, perché Gioia Tauro è un porto di eccellenza nel panorama dei porti nazionali e internazionali. Sì, ci chiediamo come mai il ministro Lupi non ha chiarito ancora alcune situazioni, perché allora non ha parlato immediatamente con le istituzioni locali spiegando che non ci sarebbe stato nessun tipo di problema, e perché soprattutto di queste operazioni che dice che sono già avvenute all'interno del porto non ha mai dato comunicazione alle istituzioni locali. Ma se così fosse, e io non avrei dubbi neanche a crederlo, dico, per quale motivo allora lo stesso trasbordo non si è fatto, alcuni interrogativi che ci si pone, non si è fatto direttamente in Siria, oppure per quale motivo allora c'è l'esigenza di mandare l'esercito e addirittura tutta questa attenzione a livello mondiale? Voglio ricordare a tutti che non se ne sta occupando soltanto l'Italia, ma a Gioia Tauro è arrivata la televisione russa, è arrivata la televisione statunitense, sono arrivate le televisioni di mezzo mondo e sono preoccupate di questa situazione. Quindi queste domande, mi scusi Sindaco Bellofiore, queste domande che voi porrete, questi interrogativi domani al Presidente del Consiglio Letta? Sarete a Roma, no? Sì, domani mattina sì. Sono queste domande che diceva. Saranno questi interrogativi perché le persone hanno perso un po' di fiducia, hanno paura che alla fine non gli verrà detta tutta la verità. Ecco, dove dicevo che è stata gestita male dall'inizio. Sarebbe dovuto chiamare i rappresentanti in loco dello Stato, i sindaci, spiegargli tutta la situazione in maniera tale da poter preventivamente predisporre quella giusta informazione e corretta informazione. Ormai il panico si è sparso, si è letto vari giornali che potrebbe succedere di tutto, quindi si immagini, ora non è facile riuscire a dare quella giusta informazione. Noi ci proveremo, faremo di tutto, però sicuramente il governo su questo non ha considerato, forse perché in Calabria abbiamo la lenna al naso. L'ultima cosa, Sindaco Bellofiore, diceva Lupi, sempre il Ministro dei Trasporti, che questo per Gioia Tauro dovrebbe essere invece letto come un riconoscimento, dice dovremmo essere orgogliosi di partecipare a un processo di pace, di essere protagonisti di un processo internazionale con l'ONU e che questo tocchi proprio Gioia Tauro. Lei non è convinto di questo? No, io sono convinto che sicuramente è un'operazione che va fatta, parliamo di bonifiche di armi chimiche, che si parla quindi di armi di distruzione di massa, quindi va bene. Però è sul sito che viene scelto che abbiamo qualche perplessità, perché non è un sito idoneo, cioè non è un sito che ha delle strutture sanitarie idonee a sopperire eventuali problematiche, non è un sito dove attualmente c'è un piano di sicurezza per la popolazione, quindi sono queste cose che vengono a mancare e che minano un po' la fiducia nel governo stesso e nelle istituzioni. Quindi l'operazione in sé non è dubbio che è qualcosa di positivo, anzi di dovuto. Quindi, perché ripetiamo, parliamo di armi di distruzione di massa che altrimenti potrebbero usate nei confronti di civili, se in mano a qualche dittatore. Però per quale motivo ci si chiede questa segretezza anche nei confronti delle istituzioni, che poi segretezza fino a un certo punto, perché poi c'è stata un'edizione alla Camera, quindi c'è stata poi la pubblicità. È chiaro. Sindaco Renato Bellofiore, facciamo che se riusciamo ci aggiorniamo domani, allora, quando avrete parlato col Presidente del Consiglio Letta, d'accordo? Bene, almeno potremo parlare su qualche dato ufficiale. Bene, comunque. Infatti. Bene, buon incontro allora per domani. Buona continuazione. Grazie Sindaco, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E riprendiamo allora dai titoli le notizie. La legge elettorale in primissimo piano con Matteo Renzi che l'ha presentata alla direzione del PD, dice con la mia riforma, il presidente del partito Cuperlo ha detto la proposta non mi convince, però la direzione del PD l'ha varata, l'ha votata. Mafia, Totò Riina intercettato lo scorso 16 novembre, ride sugli attentati e sul magistrato Di Matteo, dice per lui voglio la fine del tonno. È morto il maestro Claudio Abbado, una vita tutta dedicata alla musica. La Camera Ardente sarà allestita domani nella chiesa di Santo Stefano a Bologna. Per il calciomercato ci sono i tifosi neroazzurri in rivolta e protestano via web per lo scambio Guarin-Vucinic. Adesso invece vorrei parlare di questo rapporto incredibile dell'ILO quasi un miliardo di lavoratori che al mondo vivono, pensate, con meno di $2 al giorno. Buonasera al professor Stefano Zamagni. Buonasera. Buonasera a tutti. Professore, stavo leggendo quindi questi dati veramente sconvolgenti del rapporto ILO, cioè dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che non solo parla di un boom di disoccupati nel 2013, ci sono stati 5 milioni di disoccupati in più, ma l'altro dato veramente allarmante, è quasi incredibile come numero, è che ci sono 839 milioni di lavoratori che vivono con meno di $2 al giorno, è quasi un miliardo di popolazione del mondo, professore. Il dato è sconvolgente, ma non è inatteso. Chi segue queste cose per ragioni o professionali o di interesse particolare sa che è da tempo che si stanno dicendo queste cose. Ad esempio Stiglitz, nel suo ultimo libro, che è stato pubblicato anche in traduzione italiana, già l'anno scorso aveva anticipato. Quello che può cambiare da un anno all'altro sono i valori assoluti. Allora, i poveri assoluti, quelli che vivono con meno di $2 al giorno, sono una realtà che è triste, ma che è legata a un fallimento delle istituzioni economiche. Cioè, questa gente non muore di fame o non soffre la fame per mancanza di risorse. Questa è la grande novità che va detta, perché molti non lo sanno. Questo era sino a alcuni decenni fa. Oggi le risorse, in particolare il cibo, sarebbe a disposizione di tutti. Se questo non arriva sui tavoli, nei tavoli di tutte le persone, è perché il meccanismo delle istituzioni economiche, quello cioè che riguarda la distribuzione sia dei redditi che delle derrate alimentari, opera in maniera perversa. Ed allora questo è veramente triste. Una volta si moriva di fame perché non ce n'era per tutti, qualcuno comunque doveva morire di fame, oggi invece non è più così. E qui nasce una responsabilità nuova, bisogna affrettarci per cambiare le regole del gioco, cioè le istituzioni. Quelle regole del gioco che riguardano le istituzioni finanziarie internazionali, quelle economiche e soprattutto gli accordi a livello intergovernativo. Quindi, professor Zamagni, questa è una denuncia ancora più grave, perché fosse una mancanza di risorse, le diceva, insomma, per la sopravvivenza, muoio io, vivi tu, eccetera. Però qui addirittura il fallimento delle istituzioni economiche internazionali, le fa potrebbe essere un esempio il Fondo Monetario Internazionale, per esempio? Il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, un altro esempio, e le istituzioni che mancano, ad esempio c'è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si occupa della sicurezza militare, che è importante, nulla da dire, ma perché non creare, come diversi enti da tempo insistono col chiedere, un Consiglio di Sicurezza socio-economico, un Consiglio di Sicurezza cioè che si occupi della sicurezza economica e sociale delle varie popolazioni. Non lo si vuol fare, non mi si venga a dire che questo non sia possibile. È possibilissimo, anche perché evidentemente l'articolato del regolamento e dello statuto è già disponibile, perché era stato preparato. Il fatto è che manca, come si dice in gergo, la cosiddetta volontà politica da un lato, perché questi 850 milioni di esseri umani sono in prevalenza, come tutti sanno, localizzati in certe aree del mondo, non che manchino anche nei nostri paesi occidentali, ma si tratta veramente di cifre molto molto modeste. E allora, siccome le istituzioni internazionali dipendono dalla volontà dei paesi occidentali, diciamo pure dei civetti, ecco che il cerchio si chiude. Quindi è vero che c'è una responsabilità, stavolta morale, di gran lunga superiore a quella del passato. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Notizie del giorno sono tante, quindi si passa da una cosa all'altra, e questa è la notizia più triste del giorno, almeno per noi, insomma, per noi italiani, per la collettività, la perdita di un grande testimone almeno delle eccellenze, quelle che ancora ci sono rimaste italiane, che è la scomparsa di Claudio Abbado. Vorrei che ce lo ricordasse Armando Torno. Ciao Armando. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera e conduttore di Musica Maestro qui su Radio 24. Quindi un ricordo da te, che sei grande. Beh, il ricordo di Abbado è ricordare una persona di prima grandezza, è ricordare uno dei direttori più importanti del nostro tempo, della nostra epoca, delle nostre emozioni, diciamo così. perché Abbado incarna il Novecento, incarna la contemporaneità, allo stesso tempo dà spazio al barocco, dà spazio alla grande lirica ottocentesca. Nel repertorio di Abbado ci sono Mozart, c'è Haydn, addirittura si era riproposto di rifare le sinfonie di Haydn, ma c'è anche, che so io, Pergolesi, anche lì il progetto di fare tutto Pergolesi, e poi c'è Verdi, c'è Donizetti, c'è Bellini, c'è un po' tutta la nostra tradizione lirica. Ma poi Abbado è anche sperimentazione. Quando nel 68 diventa direttore della Scala, direttore stabile della Scala, non dimentichiamoci che subito mette in scena opere, situazioni, eccetera, che entrano proprio a capofitto nella contemporaneità, a parte il rapporto con Luigi Nono, a parte tutto questo. Ma non dimentichiamoci che già nel 69 viene messo in scena Oedipus Rex di Stravinsky con Marilyn Horn, e poi viene ripreso una Lucia di Lammermoor. Ecco, ricordo soltanto questo, questo era un po' Abbado. Poi i suoi grandi impegni internazionali, Wiener Philharmonic, e poi Berliner dall'89. E poi non dimentichiamolo, quelle orchestre giovanili che lui ha tenuto a battesimo e che ha portato conoscenza in tutto il mondo. Scopritore di talenti, no? Scopritore di talenti. Assolutamente, scopritore di talenti e aperture di nuove iniziative. E poi questa sua fede nella cultura, questa sua fede nelle piante, insomma. Molte volte anche, diciamo così, con un pizzico di ingenuità, di meraviglia, però questa sua fede nella cultura l'ha portato anche soventi in alcuni talk show che proprio non stavano a lui, non erano confezionati bene forse per lui, ma nei quali ha detto delle cose bellissime, cioè che la cultura può salvare delle persone, può impegnare delle vite. La cultura è vita, insomma, non è semplicemente un costo come taluni governi italiani vanno ripetendo oppure fanno finta di ripetere. Armando, tra l'altro, quello che bisogna dire di Abbado, non solo un grandissimo artista, ma era anche la sua grande carica umana. Dicevano, dicono ancora alcuni dei suoi allievi, dei suoi orchestrali, eccetera, che lui voleva essere chiamato Claudio. Audio, non voleva, maestro, si arrabbiava addirittura. Beh, questo è un tipico vezzo delle persone che hanno una certa grandezza, non soltanto. Poi non dimentichiamoci che il suo emolumento da senatore, che non è pochi euro al mese, l'ha devoluto per la scuola di Fiesole, quindi ancora per la musica, sì. E non mi sembra che ci siano altri casi da segnalare con la stessa evidenza, ecco. Aggiungo anche che Abbado credeva fortemente nei giovani, cioè nell'orchestra Mozart che lui ha formato, in questa orchestra venezuelana, in tanti giovani che ha raccolto, che ha istruito, che ha fatto, che ha messo. Lui stesso, insomma, non dimentichiamolo che è sempre stato un infaticabile, veramente, scopritore di talenti. Armando, tra l'altro, diciamo, speriamo che sia esaudito il suo desiderio. Voleva 90 alberi da piantare in città, a Milano, come cachet, quando gli chiesero di tornare alla Scala nel 2008. Poi c'è tornato nel 2012, questi alberi non si sono mai visti. Farebbero bene al suo ricordo e soprattutto a noi a Milano e a tutti. Grazie Armando Torno. Grazie a te Roberta. Ciao Armando. E su questo ricordo ci lasciamo brevemente adesso. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Tra poco.